C'è chi gioca a cesse, che nabbo, che assoluto clown, scarso, putrido, debole, inutile e feeder, non sa sparare, non sa mirare, non fa utility, che spreco di connessione internet, che giocatore inguardabile, Dio mio ciacca, ti prego, pregi la VP a fine match, non tenerti il Famas, Dio santo cosa sto vedendo, ti prego non smoccare a favore degli avversari, ciac non passare davanti alla gente mentre spara. Ti prego cosa sto assistendo vaticinando è una cosa immonda ma com'è possibile mi chiedo io. Che clown, madonna che monnezza mi viene da vomitare sto male ciac porco di oh.